Letture di Radio 24. Marisa Merico nasce a Milano nel 1970, figlia di una ragazza inglese finita in Italia in cerca di lavoro e di Emilio di giovine, destinato a diventare uno dei boss internazionali dell''Ndrangheta. Negli anni Ottanta anche la giovane Marisa viene avviata alla carriera criminale e sarà proprio lei a diventare capo del clan quando il padre finirà in galera. Arrestata e condannata a 10 anni di carcere, Marisa riuscirà, per amore dei figli, ad uscire dal giro. Oggi vive in Inghilterra e racconta la sua vita nel libro L'Intoccabile, una storia che parte dalla Calabria, dove viveva la famiglia di suo padre. Mentre il nonno diventava un uomo di fiducia del clan, trasportando vari articoli di contrabbando, la nonna iniziò a partorire un figlio dietro l'altro. In quegli anni, persino con tutti i loro traffici, furti e il contrabbando, era molto difficile per la famiglia sbarcare il lunario, ma le antiche tradizioni erano regolarmente rispettate. La nonna era quella che impugnava il timone della famiglia. Era generosa di natura, ma aveva anche un altro lato, spietato. Se qualcuno faceva un torto alla famiglia o le mancava di rispetto, non ci pensava due volte a farlo picchiare a sangue. Era così che era sempre vissuta. Nel 1963 Emilio aveva 6 fratelli e 4 sorelle. Vivevano come polli, in costante competizione per spazio e cibo. Fu a quel punto che la nonna decise di emigrare a Milano. Milano era una città straniera e lontana, ma la nonna era determinata. Aveva messo da parte qualche risparmio ed era molto scaltra, il che le bastò per procurarsi un appartamento in Piazza Prealpi, dove la signora Maria avrebbe radicato la sua associazione a delinquere. Prese contatti con la malavita milanese, ma di maggiore importanza per lei furono i solidi legami con la Calabria, da dove provenivano sigarette, alcolici di contrabbando e contante per finanziare l'inizio delle sue attività. La sua banda era un giovanissimo mucchio selvaggio. Nel tempo tutti i figli vi presero parte. Piazza Prealpi, un quarto d'ora dal centro città quando c'è traffico, era al fulcro del suo impero. Era un quartiere degradato, brulicante di vita, dove però c'era tutto. Bar, osterie e ristoranti aperti dall'alba fino alle ore piccole. La nonna intuì immediatamente il potenziale di quella piazza per fare fortuna commerciando illegalmente in sigarette e alcolici. Ogni mattina in cucina presiedeva una riunione di famiglia a cui partecipavano tutti i figli in età utile. Diceva loro che cosa rubare, come rubarlo e dove smerciarlo. Se uno di loro faceva la spia a scapito di un fratello, lei lo picchiava senza pietà. La regola era silenzio o botte. Non mandò nessuno dei figli a scuola. Era lei la loro insegnante, la loro preside, che implementava la disciplina picchiandoli con un grosso cucchiaio di legno. Ed era proprio quello il nocciolo del suo insegnamento. Prima devono temerti, poi ti rispetteranno. A soli 15 anni mio padre già dirigeva una 20ina di giovanissimi corrieri che facevano la spola tra la Svizzera e Milano a bordo di 500 piene di stecche nascoste sotto i sedili che venivano poi sollevati a colpi di piede di porco. I fornitori onesti erano furibondi e si rivolsero alla polizia. Gli agenti si sentirono costretti a indagare e divennero così ospiti regolari dell'appartamento di famiglia, dal quale uscivano sempre con 1 o 2 stecche di Marlboro e un bacio su ciascuna guancia da parte della nonna. Quando al commissariato si sparse la voce, in casa arrivarono sempre nuovi agenti e i regali si fecero più generosi. Con la polizia sul loro libro paga, tutti sapevano che i Di Giovine erano il clan più influente della zona. E la signora Maria voleva che tutti sapessero chi comandava lì. Emilio era il suo esecutore e pestava a sangue chi sgarrava. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Marisa Merico, L'Intoccabile, da Milano a Londra, la vera storia di una principessa dell''Ndrangheta. Sperling e Kupfer Editore, 276 pagine, 18 euro. Letture di Radio 24. Mentre si diffonde sempre di più l'abitudine di leggere i libri in formato digitale, c'è chi si ostina a difendere il piacere di avere tra le mani un libro cartaceo. Si chiama Toccare i libri, il saggio in cui il giornalista Jesus Marciamalo racconta la sua passione per i libri da leggere, da sfogliare, da possedere. Una guida per gli appassionati della lettura che cerca anche di dare risposte a domande che sono semplici solo in apparenza, come ad esempio l'eterno quesito su come disporre i libri sugli scaffali. Cominciamo dicendo che l'ordine dei libri viene messo in crisi dai libri stessi, che il più delle volte si rifiutano di essere disposti in formazione. Per molto tempo i libri non hanno avuto a disposizione un luogo dedicato all'interno delle case, ma venivano riposti dentro bauli, cassetti e credenze, insieme a piatti, bicchieri, lenzuola e vestiti. Solo a partire dal XVI secolo e soprattutto nel XVII, le classi più agiate cominciarono a rivendicare uno spazio dedicato per la lettura, riservando le intere stanze in cui mettevano anche i libri, prima accatastandoli su tavoli secondo l'uso medioevale e poi disponendoli su scaffali e mensole lungo le pareti. Ma i libri conservano una sorta di ancestrale istinto di foresta, una tendenza alla dispersione che ostacola l'ordine. Dove vanno i libri di Kafka, per esempio, e dove quelli su Kafka? Deve prevalere il titolo sull'autore o l'argomento sul titolo? O magari l'autore sull'argomento? Semplificando, potremmo affermare che gli individui si distinguono in due generi a seconda di come affrontano questo problema. Tra chi impone un certo ordine sugli scaffali possiamo riconoscere diverse scuole, ma generalizzando potremmo dire che di solito si segue un ordine alfabetico o cronologico. Eppure, a giudizio di Susan Sontag, che confessava di dedicare molto tempo a spostare e rimettere in ordine i suoi libri, era intollerabile l'idea che Platone e Pynchon potessero condividere lo stesso scaffale solo perché i loro nomi cominciano con la stessa lettera. E così, sembrerebbe logico difendere un rigoroso ordine cronologico cominciando da Aristotele, per esempio, per finire con David Leavitt all'esatto estremo opposto dell'universo, o almeno della sala, comunque sempre a una certa distanza. L'ordine cronologico richiede inoltre una conoscenza, se non esaustiva, almeno sufficiente della storia della letteratura, giacché per localizzare un autore è necessario situarlo nel tempo, se non altro con una certa approssimazione. Ma ogni tanto le cose si complicano. Io, per esempio, farei una gran fatica a decidere tra Maupassant e Poe. Francamente non saprei proprio dire chi dei due sia più giovane e lo stesso per Rimbaud e Zola. Propenderei per Rimbaud, ma forse mi lascio ingannare dalla sua eterna gioventù. Per evitare tutti questi inconvenienti, c'è chi propende per metodi leggermente eccentrici. Per esempio, lo scrittore cubano Lezama Lima ordinava i suoi libri per casa editrice, il che facilita di gran lunga le cose. Un mio amico, invece, li dispone secondo altri criteri ancora, certi per materia, altri per formato o per anno di pubblicazione. C'è poi quello che li ordina per area culturale. Libri occidentali da un lato, libri orientali dall'altro, ed è prevista pure la terza sezione per gli apolidi. Sarete d'accordo che scrivere un libro apolide è una delle cose più inusuali che possono capitare a un autore? Ma tant'è. Un metodo molto più preciso era quello utilizzato fino a poco tempo fa nelle biblioteche pubbliche, in cui i libri, per risparmiare spazio, si ordinavano per dimensioni, i piccoli con i piccoli, i medi con i medi e i grandi con i grandi. In ogni modo, ordinare i libri è sempre un'impresa. Diciamo che bisognerebbe evitare di farlo, a meno che non si disponga di tanto tempo libero o non si venga pagati apposta. Come fece Caterina di Russia quando comprò la biblioteca di Diderot, a patto che lui stesso gliela mantenesse sempre in perfetto ordine. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Jesus Marciamalo, Toccare i libri, una passeggiata romantica e sensuale tra le pagine. Ponte alle Grazie Editore, 64 pagine, 8 euro. Juliet, la protagonista del romanzo di Amy Bradley, Amore, Zucchero e Cannella, ha inseguito per anni il sogno di avere una casa da dividere con Simon, il suo grande amore. Ma la prima notte passata nel nuovo appartamento, scopre che lui l'ha tradita con Anna, la sua migliore amica. Lasciai Simon a letto e andai a telefonare a Anna dal bagno. Le dita mi tremavano mentre componevo convulsamente il numero, bucando quasi la tastiera. Mi rispose subito con un allegro: «Ehi, Juliet, tutto ok? Gesù, che tempo di merda!» Sobbalzai al suono della sua voce. «Juliet!» disse ancora. «Che succede?» Con un groppo in gola mi sforzai di far uscire le parole. «Anna!» dissi premendo il telefono così forte contro l'orecchio da avere l'impressione che bruciasse. «Sei andata a letto con Simon?» Cercai di continuare a respirare, di non vomitare tutto il prosecco che avevo bevuto. Mi morsi le labbra tanto da sentire il sapore del sangue. «Su, dai, Anna!» la implorai tremante. «Dimmi la verità, è successo?» «Oh, Juliet, non ha nessuna importanza!» disse dolcemente. «E poi è successo una volta sola. Ti ricordi quando sei stata da Joy quella notte di marzo? Abbiamo bevuto una bottiglia di whisky insieme e lui mi ha letteralmente incollato la lingua alla gola. So che non avrei dovuto permetterglielo, ma ho pensato che fosse troppo ubriaco. Sono mesi che volevo dirtelo, ma sembravi così felice. Non sapevo come fare. Non ha significato nulla, Juliet, credimi. Sai, mi odio all'idea di averti ferita. Devi credermi. Come hai potuto?» Fu tutto quello che riuscì a dire prima di scoppiare in un terribile singhiozzo strozzato. Mi sentii stranamente vulnerabile. Provai vergogna perché mi avevano tenuto nascosto tutto questo per mesi. Avevano riso di me. Pensai ai silenzi di Simon di quella sera. Era stato nel nostro nuovo appartamento ad ascoltarmi parlare del cassetto delle posate, desiderando per tutto il tempo di stare con Anna? Avvampai e scavai con le unghie nella guancia. Riattaccai e mi sedetti sul bordo della vasca, gli occhi accecati dalle lacrime. Singhiozzavo miserevolmente, contorcendomi. Mi sentivo la persona più infelice al mondo. Poi sentii dei colpetti di tosse alla porta. «Juliet», disse, bussando con cautela, «cosa fai lì dentro?» Guardai la mia immagine, gli occhi arrossati. Battendo con un pugno sul lavandino, mi rimproverai per essermi lasciata trascinare in quella situazione. Come avevo potuto essere così senza cervello da dipendere completamente da Simon per realizzare la mia felicità? «Vieni fuori, Juliet, su!» gli sentii dire attraverso la porta. «Torna a letto, per piacere!» Con la mano sul pomello della porta spinsi, non sapendo cosa fare o dire e nemmeno come mantenermi in piedi. Ma non appena entrai in camera da letto e guardai Simon in faccia, seppi che non c'era più nessun futuro. «Puoi andartene all'istante», dissi afferrando tremante una coperta e un cuscino da una scatola aperta e stringendomeli al petto. «Va via», dissi indicando la porta, e dopo qualche sospiro lo fece. Se ne andò. Trattenne il respiro mentre i suoi passi si perdevano in lontananza e andai alla finestra a guardarlo incamminarsi per Lovelace Avenue. Simon alzò lo sguardo e io premetti i palmi contro il vetro, due bandierine bianche. Scoppiai a piangere. Rimasi lì, vicino alla finestra. «Cosa farò?» chiesi alle pareti. Nessuna risposta. Avrei dovuto farci l'abitudine. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Amy Bradley, Amore, Zucchero e Cannella. Newton Compton Editori, 352 pagine, 9,90 €. A partire dal 1939, Giovannino Guareschi pubblica prima su Bertoldo e poi su Candido una rubrica che nel corso del tempo si trasforma in un diario di quello che avviene all'interno della sua famiglia. Cronache e aneddoti che hanno per protagonisti la moglie Margherita, i figli Albertino e Passionaria, la collaboratrice familiare Jo. Personaggi attraverso i quali l'autore di Don Camillo e Peppone fotografa la realtà delle famiglie italiane del dopoguerra. Una realtà che negli anni 60 è, nel bene e nel male, condizionata dal nuovo elettrodomestico entrato di prepotenza nelle case degli italiani, la televisione. E non a caso, la nuova rubrica pubblicata sul settimanale Oggi a partire dal 1964 si chiama Telecorrierino delle famiglie. Aleggiava nell'aria la stanchezza dell'estate e dalla finestra del tinello guardavo i campi brulicanti di gente agitata. In quel momento bussarono e Gio andò ad aprire. «È arrivato il fenomeno», annunciò rientrando. «Il fenomeno è una cosa del peso di 5 chili, veramente fenomenale, perché, pur non superando i 3 mesi di vita, riesce a fare cose meravigliose. Come dire, muovere le gambette, sorridere, mettersi le manine in bocca, succhiare il latte, eccetera. E anche per quanto riguarda l'eccetera, che non posso precisare per non essere accusato di volgarità, siamo sempre nel campo del prodigioso. Arrivò il fenomeno, anzi la fenomena, tra le braccia della madre. «Posso lasciarla qui mezz'ora?» domandò la giovane signora. «Dipende dalla commissione interna», risposi allargando le braccia. La commissione interna considerò la fenomena, la prese in consegna e rispose: «Purché non diventi un'abitudine, la può lasciare». Mi avvicinai a Joe e la fenomena, non appena le giunsi a tiro, mi agguantò saldamente per i baffi. Era un'attestazione di particolare simpatia e Margherita si adombrò. «Con me non ha mai fatto un gesto così confidenziale», si rammaricò. «Forse dipende dal fatto che tu non hai i baffi»,